In questi brutti giorni di guerra, un certo numero di personaggi di vario peso politico e rilevanza pubblica hanno sentito il bisogno, nel criticare ciascuno con gli argomenti suoi propri, le incursioni americane e britanniche sull'Iraq, di esprimere la propria riprovazione nei riguardi del regime iracheno e del suo capo. Come a dire, stringi che i bombardamenti sono una gran brutta cosa, ma che Saddam Hussein questa volta se l'era proprio voluta. La specificazione, specie se espressa in termini meno rozzi di quelli che vi ho riferito io adesso, ha nella sua costruzione simmetrica un certo tono convincente e infatti è stata fatta propria da ministri degli esteri, da parlamentari, da leader politici, da diplomatici, da giornalisti di grido, persino da un paio di commentatori di Radio Popolare. Non tutti naturalmente hanno inteso servirsene allo scopo di giustificare Clinton e Blair, ma insomma, un certo effetto giustificatorio, magari implicito, in questo tipo di argomentazioni è sempre connesso. Tanto è vero che se ne sono serviti ampiamente tutti coloro che della decisione americana e britannica si sono ostinati a rivendicare una non meglio precisata legittimità. Ora, io non intendo certo erigermi né in questa sede né in altre a difensore di Saddam Hussein, che sappiamo tutti che il suo è un regime dispotico e crudele, che accumula armamenti pericolosi e non tiene in conto alcuno le delibere dell'ONU, come peraltro fanno gli alleati israeliani degli Stati Uniti, che opprime i curdi, proprio come gli alleati turchi degli Stati Uniti, che non si cura più di tanto dei diritti umani, anche se perlomeno non ha cercato di relegare le donne nel Medioevo come hanno fatto gli alleati afghani degli Stati Uniti, e non prevede la lapidazione delle adultere, il taglio delle mani ai ladri, come fanno gli alleati sauditi degli Stati Uniti. E se uno disapprova gli Stati Uniti, che a simili alleati sono soliti accompagnarsi, non può certo approvare Saddam Hussein, che non a caso dagli Stati Uniti è stato a suo tempo vezzeggiato e protetto. Una cosa però dovrebbe essere chiara alle persone ragionevoli: io credo che nessuna delle colpe di Saddam Hussein può giustificare quello che è successo in Iraq, come nessuna delle sue colpe poteva giustificare in passato il bestiale blocco economico che ha messo il paese in ginocchio e ha causato sicuramente più vittime innocenti dei re di questi giorni. E vedete, è una cosa così ovvia che ci si vergogna quasi di farla notare, ma nei rapporti tra padroni e sudditi è implicita una simmetria che non permette alle persone ragionevoli di utilizzare argomentazioni giustificatorie fondate su una simmetria come quella che abbiamo citato prima. Le responsabilità di chi comanda sono personali, almeno a un certo livello, ma le conseguenze le subiscono collettivamente quanti sono nella sgradevole condizione di essere comandati. È banale osservarlo, ma è molto improbabile che Saddam o qualsiasi pezzo grosso del suo regime abbia potuto trovarsi per caso sulla traiettoria di un missile, un raggio d'azione di un bombardiere, come è stato improbabile che negli anni scorsi uno di loro abbia saltato un solo pasto a causa delle sanzioni che colpivano l'Iraq. La guerra ha in sé questo di brutto, di sostanzialmente irragionevole, che non può prendere in considerazione le responsabilità personali. Deve rivelare tutti i membri di una comunità, volenti o nolenti, nella stessa categoria di nemico o di bersaglio. In questo senso, la guerra non è mai legittima, perché non può esistere legittimità in un'azione che non tiene conto per definizione delle responsabilità di chi colpisce, anche se le incursioni fossero state autorizzate dal Consiglio di Sicurezza o da qualche assise internazionale ancora più autorevole, sarebbero state illegittime lo stesso. Con buona pace del nostro governo, la guerra è una cosa che va condannata in sé. E poi naturalmente c'è chi al ruolo di bersaglio può sottrarsi e chi no. Qualcuno, mi sembra, ha ipotizzato che l'operazione britannico-americana avesse l'obiettivo di abbattere il regime iracheno e di togliere di mezzo una volta per tutte il suo capo. Sarà anche. E francamente però non credo che i cittadini di Baghdad e delle altre città sotto il fuoco abbiano considerato i bombardamenti come una manifestazione di solidarietà nei loro confronti o come il generoso tentativo di liberarli da un padrone crudele. È più probabile che, come è successo nel 91, si siano sentiti spinti a stringersi attorno a quello che stringi è il simbolo del loro paese, rafforzandone e prolungandone il potere. Anche questa ipotesi in realtà è soltanto una giustificazione, una foglia di fico con cui coprire le proprie vergogne. D'altronde c'è chi di simili foglie di fico ha un tremendo bisogno. Perché una volta tolta di mezzo questo genere di giustificazioni, che cosa resta dell'azione dei nostri alleati britannici e americani? Resta lo spettacolo delle due più grandi potenze militari del mondo che s'accaniscono con tutto il peso della tecnologia militare avanzata su un paese praticamente inerme, che per quanti armamenti si dica che abbia accumulato in segreto, non aveva a prima vista la benché minima possibilità di difendersi, infierendo su un popolo di straccioni, affamati, ridotti ai minimi termini da anni e anni di isolamento economico, e del che Saddam Hussein avrà senz'altro le sue brave responsabilità, figuriamoci. Ma credete che bastino sollevare quelle di Clinton, di Blair, dei loro vari zelatori a leggi coda, compresi quelli italiani? Chi vuole sostenerlo è libero di accomodarsi, ma almeno sappia in che compagnia si va a mettere.